Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45 circa. Allora, vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore Online. Si chiama Guardie o Ladri e affronto temi di legalità. Devo ringraziarvi perché è molto molto visitato e sono sicuro che merito è anche vostro, dei radioascoltatori che appunto seguono il percorso di legalità, che non è soltanto qui in radio ma è anche appunto sul blog e con le mie inchieste sul Sole. Allora, è piena estate e leggo dalla Unione Sarda un titolo molto molto curioso, e siccome un grandissimo pregio che mi riconosco è quello dell'ignoranza, è bellissimo apprendere che la Sardegna è una delle patrie del corallo, e il titolo è questo: i corallari vincono la battaglia. Condannata la regione, la giunta Soru aveva bloccato la spesa. Ora ve lo sintetizzo, probabilmente anche omettendo, sbagliando qualcosina, ma la sintesi è questa: era stato imposto uno stop nel 2006 e questo stop è stato dichiarato non legittimo dal TAR. Ma il motivo per il quale noi parliamo di questo è il fatto proprio che il corallo, la pesca del corallo, così come ovviamente la pesca o la caccia di specie protette, pregiate e preziose, piuttosto che il fatto che si depredi il patrimonio artistico italiano, è qualcosa che a me sempre inquieta. E allora, per capirne di più, per cercare di capire fin dove è, come dire, tutelato il nostro patrimonio, in questo caso corallifero, e dove invece non lo è, io ho chiamato a discutere con noi l'assessore regionale in Sardegna all'agricoltura e alla pesca, Andrea Prato. Buongiorno assessore. Buongiorno. E l'ordinario di biologia marina e direttore del dipartimento all'Università di Cagliari, il professor Angelo Cau. Buongiorno professor Cau. Buongiorno a voi. Domani avremo altri due ospiti, perché dedico due puntate a questo tema, partendo, come dicevo prima, da un grande buco di cui chiedo scusa immediatamente all'assessore Prato, cioè la mia ignoranza sconfinata. Io non sapevo, assessore, che la Sardegna avesse questa, come dire, potenza economica nel l'oro rosso, nel corallo. È uno dei nostri grandi pregi, ne abbiamo tanti e abbiamo anche questo. La nostra è un'isola fantastica. Non lo metto in dubbio, io l'amo moltissimo. Allora, io leggo un comunicato stampa che lei ha emesso il 14 aprile 2009, in cui dice: la stagione, che prima iniziava il 1 giugno per concludersi il 15 ottobre per la pesca del corallo, l'abbiamo anticipata al 1 maggio, chiusura sempre il 15 ottobre, e le autorizzazioni salgono da 20 a 30. Allora le chiedo, come mai questa anticipazione e come mai questo aumento delle autorizzazioni? Avete così tanto oro rosso che non temete che venga depredato, saccheggiato in maniera vandalica? Ma guardi, intanto una premessa di metodo: noi siamo molto sensibili alla tutela dell'ambiente, ma viviamo l'ambiente insieme all'uomo. A noi non piace l'ambiente senza l'uomo dentro, per cui abbiamo fatto una verifica molto attenta, coinvolgendo le parti sociali, coinvolgendo l'università, coinvolgendo le agenzie di ricerca regionale, per verificare attentamente e puntualmente quale fosse lo stato di salute del corallo. Le confermo, ma il professore sarà molto più preciso di me, che lo stato di salute è molto buono e che la possibilità che noi abbiamo di pescare quest'anno non metterà in nessun modo a pregiudizio la risorsa stessa. Quindi gestiremo la risorsa in modo tale da garantire ai pescatori di lavorare adeguatamente e avere un giusto ritorno economico, e contemporaneamente di far sì che la situazione del corallo non sia messa minimamente a repentaglio, tanto che poi il 15 ottobre si scenderà in mare per vedere la situazione e fare già la strategia nuova nuova per il 2010 senza attendere tutti i ritardi che abbiamo un po' accumulato quest'anno. Esatto, ecco. E sotto questa se posso finire, prego. Su questo punto il 1° maggio non è anticipare, è il termine giusto per far partire la stagione, perché bisogna pescare in periodi in cui il mare è buono, altrimenti apriamo la pesca, ma in momenti in cui il tempo non è così clemente e quindi c'è meno possibilità da parte degli imprenditori di avere un giusto ritorno certo. economico. Ecco, io dicevo anticipare perché evidentemente prima iniziava 1° giugno, adesso invece mi pare il 1° maggio, quindi comunque si tratta di un anticipo. Assessore, io però le chiedo questo, ma voi come controllate che soltanto quei 30 imprenditori, quelle 30 autorizzazioni siano tali e quindi che soltanto coloro i quali voi autorizzate scendono a profondità elevatissime per raccogliere del corallo? Chi controlla? Ma guardi, non vorrei rubare il mestiere al professor Cao, che è una persona estremamente capace e competente. Mi limiterò solo a una parte in modo tale che poi magari il professore certo. possa dare qualche dettaglio più tecnico. La logica qual è? Noi consentiamo una pesca per giorno di 2,5 kg, che su una base di modelli matematici che sono stati elaborati ci dicono esattamente quanto è orientativamente la pesca massima possibile che avremo per singolo operatore. Ovviamente sono stati fatti controlli preventivi che dicono che con quel numero di licenze e con quel numero di giornate di pesca possibili non c'è assolutamente rischio che si possa depredare una cosa che è una delle nostre grandi fortune che noi vogliamo difendere ecco. in modo estremamente preciso e puntuale. No, ma questo va benissimo, ma allora a questo punto io ripeto la domanda perché mi pare che non abbia avuto una risposta puntuale, cioè che si possano pescare 2,5 kg di corallo al giorno, benissimo, ovviamente lo avete stabilito, l'avete fatto anche con studi e questo conforta tutti, però la mia domanda era tipo diversa, a questo punto sentiamo il professor Cao, ma chi controlla che effettivamente soltanto 2,5 kg di corallo rosso, oro rosso vengono raccolti e soprattutto come si fa ad impedire che altri purtroppo facciano razzie, perché l'oro rosso, il corallo non è che si trovi tutti i giorni, non è che ce ne siano chissà quali quantità nel mondo ed è un bene prezioso da proteggere. Prego professor Cao. Allora, che sia un bene da proteggere sono d'accordo, però il proteggere non significa vietare, il tutelare probabilmente bisognerebbe far sì che significhi razionalizzare la raccolta. Allora, esistono un numero di licenze concesse dalla regione autonoma della Sardegna, questo numero di permessi varia fra 25 e 30. Certo. Dico varia fra 25 e 30 reali perché anche se sono dati 30 permessi non tutti e 30 scendono in mare. Esiste la guardia forestale regionale quindi che deve in qualche modo guidare e controllare sia in mare sia allo sbarco quantitativi e il numero di barche che esercitano questa attività. Ecco, ma a questo punto lei, professor Cao, ovviamente io non ho alcun motivo di non credere, anzi rispetto assolutamente il ruolo della politica, quindi di non credere alle assicurazioni che ci ha fatto l'assessore Prato, però voglio conferma da lei nel senso proprio dello studio che avete fatto. Ecco, come siete giunti a capire che effettivamente la quantità di corallo, come dire, il ripascimento naturale, comunque la crescita naturale, assicura appunto che possa esserci un periodo anche più ampio di pesca in Sardegna? Allora, stiamo studiando la raccolta del corallo, dico non pesca, raccolta del corallo, dal 1990 e i dati però che noi analizziamo risalgono al 1560, allora c'erano le compagnie di Genova, della Toscana, di Pisa, che raccoglievano sia lungo le coste della Sardegna sia lungo le coste dell'Africa il corallo e in qualche modo questi quantitativi venivano registrati. Beh, i nostri dati dimostrano che i quantitativi pescati nel 1600, quantitativi per imbarcazione pescati nel 1600 non differiscono molto da quelli che attualmente si pescano sempre per imbarcazione. Benissimo, questo. Quindi i quantitativi ci siamo. Qual è la struttura? Allora, in base alle conoscenze attuali si può determinare sia la struttura della popolazione, quindi sapere l'età che queste colonie hanno, le colonie che si pescano, applicando dei modelli gestionali, modelli di dinamica di popolazione, in base alle raccolte effettuate e misurate in campo, quindi non soltanto quelle di letteratura, con un range batimetrico che va dai 40 ai 140 metri, risulta che la risorsa corallo è in equilibrio. A questo punto io vorrei chiedere all'assessore Prato anche, come dire, una curiosità di natura economica. Ecco, questo corallo, il modo in cui voi lo proteggete, mi diceva prima fuori onda, anche apprezzato a livello internazionale, che tipo di ricadute poi ha per la vostra attività turistica, economica e proprio di immagine della regione Sardegna? Allora, solo diretto, oltre i 30 operatori che hanno autorizzazione alla raccolta, anche circa 160 imprenditori che si occupano poi della trasformazione primaria, ma poi ovviamente diventa un oggetto prezioso che viene nelle mani di molti artigiani sardi e italiani che poi lo trasformano in gioielli, quindi l'indotto è molto importante, per cui riparte un'economia alla quale noi teniamo molto in un momento non facile, per un po' una congiuntura internazionale difficile. Certamente, allora io ringrazio l'assessore Prato per il suo intervento, assessore dell'agricoltura e della pesca della Regione Sardegna, il professor Angelo Cao, che è titolare e direttore del Dipartimento di Biologia Marina dell'Università di Cagliari, che con l'assessorato collabora moltissimo. E dico grazie in regia a Pietro Lacorte, in studio Laura Faggin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata ancora sul corallo. Avremo ospiti Legambiente e proprio un corallaro. Da Roberto Galullo, buona giornata a tutti.